Stefano Sermenghi. Penso che sia importante ritenere che il problema della salvaguardia dell'ambiente non è uno dei problemi, ma è il problema del nostro mondo. Per questo bisogna orientare tutte le politiche amministrative a salvaguardare ciò che abbiamo. Quindi non bisogna aumentare le strade, non bisogna aumentare il trasporto pubblico, dobbiamo usare urbanistica e lavori pubblici per migliorare la qualità dell'ambiente in cui viviamo. Dobbiamo smettere di mandare le persone meno abbienti a vivere lontano e poi a tornare indietro con la macchina, dobbiamo usare strumenti di trasporto pubblico moderni, veloci e piccoli. La pandemia ci dovrebbe aver insegnato che non possiamo ammassare le persone, soprattutto, ripeto, quelli che hanno meno possibilità in spazi angusti e piccoli, e non bisognerebbe approvare un piano urbanistico generale, come ha fatto invece il Comune di Bologna in questi mesi, in cui sono previste delle aree da destinare alla logistica lontane dalla ferrovia. Trovo che sia veramente assurdo e sbagliato amministrare in questo modo. L'ambiente si salvaguarda solo se lo mettiamo al primo posto e non in mezzo agli altri problemi. Non è con 2 metri di pista ciclabile che salveremo il pianeta. Quindi nel nostro programma c'è l'idea di modificare nel tempo la città di Bologna in una città giardino, dove prima si stabilisce dove fare parchi pubblici, piantare alberi, fare aree di sgambamento per gli animali che sono una necessaria compagnia, come abbiamo visto in questi ultimi mesi, e dopo si stabilisce dove mettere abitazioni e attività produttive. Invertendo questo concetto si può davvero fare come la città di Adelaide, per esempio, in Australia, che ha avuto pochissimi morti per Covid proprio perché è una città giardino dove l'ambiente tutela la salute dei suoi abitanti.